24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Ancora Grecia in apertura alle prese con il rimpasto di governo, mentre da Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, che si sono incontrati a Berlino, arriva la richiesta di un piano immediato di aiuti per evitare la bancarotta. Positiva la reazione delle borse, soprattutto di quella di Atene, che ha guadagnato il 5%. Spazio anche al dibattito sul rinnovo della presidenza della Banca Centrale Europea. Spazio anche ai nuovi dati sulle immatricolazioni auto e al calcio con il nuovo regolamento UEFA. E partiamo, come dicevamo, dal fronte greco. Ieri via libera al rimpasto di governo voluto dal primo ministro. Papandreou ha nominato l'attuale ministro della difesa, Evangelos Venizelos, come nuovo ministro delle finanze, mentre l'attuale responsabile dell'economia, George Papakostantinou, diventerà ministro dell'ambiente. Questo sul fronte politico interno. Altro fronte, quello più europeo, relativo agli aiuti da accordare ad Atene sull'orlo del fallimento. Donc la France et l'Allemagne ensemble. Nous soutenons de toutes nos forces l'euro. E quella che sentite è la voce di Nicolas Sarkozy alla fine del vertice a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel. La Francia e la Germania unite sostengono con tutte le loro forze l'euro, ha detto Sarkozy. I due leader hanno chiesto un secondo piano di salvataggio per la Grecia in tempi brevi e hanno auspicato il coinvolgimento volontario dei privati nel piano di salvataggio. La borsa di Atene ha reagito bene ai propositi annunciati da Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. I guadagni alla fine della seduta sono stati del 5%. Bene anche la seduta nelle altre piazze europee. Sentiamo. Chiusura in rialzo per le borse europee, spinte dall'apertura della Germania e della Francia a trovare una soluzione rapida per la crisi greca. A Milano il FTSE MIB è salito dell'1,23%. Sono andate bene le azioni delle banche e quelle della BPM hanno letteralmente spiccato il volo, mettendo a segno un progresso del 12,19%. A infiammare le quotazioni della Popolare sono state le ipotesi che l'istituto sia nel mirino di BNP Paribas. Sono inoltre state gettonate le Unicredit, più 4,4%, sull'onda di indiscrezioni circa una possibile aggregazione tra la controllata Pioneer e Eurizon di Intesa San Paolo. Per contro sono andate male le Fiat SPA, meno 1,7%. Risentendo dei dati europei sulle immatricolazioni. Mentre infatti le vendite di nuove auto del vecchio continente sono salite del 7,6%, quelle del lingotto hanno registrato un modesto incremento dello 0,2%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tornando all'incontro tra Sarkozy e Merkel a Berlino, il presidente francese ha parlato anche di BCE e del sostegno francese a Mario Draghi come presidente al posto di Trichet, purché, ha aggiunto Sarkozy, l'altro italiano nel board, Bini Smaghi, lasci a favore di un francese. Primo segnale positivo di una certa entità per il mercato europeo dell'auto degli ultimi 14 mesi. In maggio le immatricolazioni nell'area dell'Unione Europea a 27 sono cresciute del 7,6% sullo stesso mese dello scorso anno. Firmato a Napoli l'accordo sull'immigrazione tra Italia e Consiglio nazionale transitorio libico. L'accordo prevede, tra l'altro, la cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale e il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare. Ma sentiamo cosa ha detto al riguardo il ministro degli esteri italiano Frattini. Con questo noi vogliamo anche dare un segnale, da un lato, nella riconoscere la serietà del Consiglio nazionale transitorio della Libia, che conferma il suo impegno, laddove purtroppo esponenti o elementi che fanno capo al regime di Tripoli, un regime ormai privo di qualsiasi legittimazione, invece purtroppo usano la disperazione dei profughi e dei migranti come una orribile arma di rappresaglia verso l'Occidente. Preoccupata Laura Boldrini, portavoce dell'UNHCR, l'ha intervistata Paolo Piacenza. Non siamo in nessun modo come dire, interessati a prendere parte a azioni di contrasto e di respingimento in mare. Dunque questa è la nostra posizione, tanto più che oggi dalla Libia sono scappate oltre 1 milione di persone verso i paesi confinanti, principalmente la Tunisia e l'Egitto, paesi che stanno vivendo una delicata fase di transizione ma che hanno voluto tenere le frontiere aperte ottemperando ai loro obblighi internazionali. E va anche detto che attraverso il Mediterraneo per giungere in Italia sono arrivate 18.000 persone, quindi meno del 2% del numero dei fuggiaschi. Dunque noi ci aspettiamo che ci sia un impegno da parte appunto della comunità internazionale, dell'Italia e dell'Europa a rispettare gli obblighi internazionali, cioè quelli del non respingimento, come stabilisce la Convenzione di Ginevra del 1951, di cui fra pochi giorni si celebra il 60° anniversario. È peggiorato lo stato di salute di uno dei bambini intossicati dopo aver mangiato hamburger nella regione di Lille, nel nord della Francia. I sanitari dell'ospedale lo hanno sottoposto a dialisi durante la notte. Il ministro della salute italiano, Fazio, ha intanto annunciato a Radio 24 che mangerà hamburger per rassicurare i consumatori italiani. Quella marca lì in particolare, io in attesa della verifica per eccesso di precauzione starei tranquillo, ma noi tra l'altro non sappiamo se viene proprio dalla carne oppure dalla filiera, ovvero sia se il batterio non si è poi sviluppato, questi batteri ci sono ma in condizioni di cattiva conservazione o di situazioni particolari si possono poi sviluppare in maniera da creare dei problemi. Se io la tengo in freezer posso consumarla quella stessa carne? Guardi, le dico una cosa, se la cuoce bene almeno 3-4 minuti a 70 gradi compreso l'interno si può consumare qualsiasi, non anche c'è problema. Se ci fossero i batteri non c'è nessun problema. Non c'è problema. Comunque l'importanza è di tranquillizzare, di stare tranquilli insomma gli italiani su questo tema. Oggi mangerò hamburger. Oggi lei mangerà hamburger, cotto 3-4 minuti però. Cotto 3-4 minuti a 70 gradi. Questo fine settimana l'Italia è protagonista della Festa Europea della Musica a Parigi. È il MEI, Meeting degli Indipendenti, il portavoce della nostra musica, il patron Giordano San Giorgi, al microfono di Marta Cagnola. L'invito è stato quello di organizzare una festa della musica italiana all'interno della giornata musicale europea che, come si sa, vede in Parigi il centro europeo della diffusione della musica, e abbiamo aderito portando 6 espressioni migliori della nuova scena musicale indipendente italiana sul palco di Nidi Darak, che sono una delle espressioni di folk rinnovato più note in Europa, fanno tantissimi concerti in tutta Europa e a Parigi sono notissimi. Quinto Rigo, che hanno fatto un disco, English Garden, che sta vendendo in tutta Europa e li porta a suonare un po' in tutti i paesi fuori dall'Italia, saranno a Berlino nei prossimi giorni. Gli Ex, guidati da Valerio Corzani, che fanno un folk rock, che ha partecipato a molte fiere estere, e come dire tantissimi altri nomi che non erano presenti a Parigi ma che lo potranno essere in futuro, che abbiamo della nuova scena musicale italiana, che sono spesso più all'estero quasi che in Italia. Il calcio adesso con le novità che arrivano dalla UEFA. Ieri l'esecutivo del massimo organo di governo calcistico europeo ha modificato i propri regolamenti per intensificare la lotta contro le gare truccate. Tra l'altro prevedono maggior collaborazione con le autorità politiche e obbligo per calciatori, allenatori e dirigenti di denunciare qualsiasi tentativo di corruzione. In caso contrario, le pene possono arrivare fino alla squalifica a vita. E poi c'è il club dell'Inter, poche parole dal patron Massimo Moratti, ma che puntano dritto all'allenatore uscente Leonardo. Sentiamole. Leonardo per il momento è ancora dell'Inter. Mi sembra che lui abbia ambizioni di altro tipo, che non sono quelle di fare l'allenatore, e quindi io ho bisogno di un allenatore, non di un in questo momento non di un direttore generale. Ed era questa la nostra ultima notizia. 24 ore in Europa si chiude qui. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.